Linee d'ombra di Matteo Caccia. Non esistevano molti farmaci per la disfunzione erettile. C'era la ioimbina, c'era la papaverina, derivati della polvere della crisalide, insomma, le hanno provate tutte. Dottore, lei non ci crederà, ma la cosa è andata avanti così per 3 settimane. Di giorno non ci incontravamo quasi mai e la sera ci sbranavamo dentro la tenda dell'ambulatorio. Storie di tradimenti, punturine e di un terapista mormone omosessuale in una puntata che si intitola Sesso, bugie e terapie. Non era quello il mio problema. Qual era il problema? Ero io il problema. Io ero... ero un bugiardo patologico. O farei meglio dire che lo sono ancora. Mentire è come essere alcolizzati. Cerchi sempre di smettere, ma... Allora è così? Mentivi? Questa era una parte del problema. Che altro succedeva? Beh, in quel periodo, di solito, io esprimevo i miei sentimenti non usando le parole. E spesso spaventavo le persone, quelle che mi erano più vicine. Sei ancora così? No. La apriamo così questa puntata di Linea d'Ombra con un pezzo preso da quel film che si intitola Sesso, bugie e videotape, per il fatto che la puntata di oggi si intitola Sesso, bugie e terapie, e tra poco capiremo il perché. Vi racconteremo le nostre storie che parlano una punturina, di una fantomatica punturina che potrebbe aiutare un uomo in difficoltà con, diciamo così, con il tornare ad essere mascolino quanto lui vorrebbe. Si parla dei tempi chiaramente che anticipano le famose pastiglie azzurre, e l'altra invece con una terapia che viene definita terapia riparativa, è quella terapia assurda secondo cui le persone omosessuali potrebbero guarire dalla loro omosessualità, immaginando appunto che la sessualità sia una malattia, e quindi potrebbero guarire da questa condizione per tornare ad essere evidentemente eterosessuali. È una storia che è molto divertente perché chi la racconta è una sorta di promulgatore di questa terapia e poi scoprirà semplicemente che aveva un problema con l'accettare la propria omosessualità, ma tra pochissimo ve la racconteremo ed entreremo nello specifico. Io, prima di cominciare a raccontare, cominciamo una nuova settimana. Io vorrei ringraziarvi per tutti i messaggi che ci mandate in questo momento così particolare per ciascuno di noi, intimamente e socialmente. Ormai viviamo questa condizione di rinchiusi in casa, ripeto, per chi se lo può permettere, per chi ha un lavoro che gli può permettere di continuare a lavorare da casa, o per chi, ahimè, è forzatamente costretto a stare a casa perché invece un lavoro in questo momento non ce l'ha, perché è sospeso, ma anche per quelli che invece sono costretti a continuare a lavorare con tutte le precauzioni del caso, in primis ovviamente gli operatori sanitari, i medici, infermieri, tutte le persone che lavorano a contatto con delle persone malate, non solo di Covid-19, ma con persone malate che hanno bisogno di assistenza, e tutta la filiera di persone che invece dall'alimentare, alla consegne, alla logistica, è costretta a continuare a uscire di casa e a fare il loro lavoro. Insomma, oltre ad essere grati a queste persone, la cosa che possiamo fare noi è appunto rimanere in casa. Noi però continuiamo a fare questo programma, convinti che in qualche modo fornirvi questa pillola di un'ora al giorno di storie che ci portano via da questa realtà per la quale possiamo fare davvero poco, se non aspettare appunto, ci possa essere d'aiuto, ci possa in qualche maniera servire. Quindi grazie per le vostre storie che continuate a mandare, grazie per l'affetto con cui ci seguite, con cui ci scrivete, che davvero in qualche modo vi può essere utile quello che mandiamo. Se per caso avete un pochettino più tempo, un pochettino più di curiosità, potete andare a visitare anche il nostro profilo Facebook Linee d'Ombra, il nostro profilo Instagram Linee d'Ombra, anche lì su Facebook Anita Panizza carica chiaramente tutte le canzoni che Luca Micheli sceglie quotidianamente per le vostre storie, e quindi trovate proprio i titoli delle canzoni, trovate spesso un'immagine, trovate qualche video che magari giriamo da casa per farvi vedere come stiamo agendo anche noi, come stiamo lavorando in questo periodo. Se invece per caso avete voglia, finita la puntata, di ascoltarvi magari pulendo casa, magari facendo allenamento in casa, di ascoltarvi le musiche che Luca Micheli sceglie, c'è una playlist di Spotify apposta. Cercate su Spotify Linee d'Ombra e lì ci sono praticamente tutti i brani che Luca Micheli ha scelto da settembre ad oggi, quindi avete tutto il tempo per fare altro che allenamento in casa, potete farvi quasi un'intera maratona, anzi sicuramente più di un'intera maratona in casa. Ma ora quindi insomma grazie, questo era per ringraziarvi della vostra continua presenza vicine a Linea d'Ombra, lo faccio io ma lo fa tutta la redazione, e ora cominciamo a raccontare sesso, bugie e terapie. Mettetevi comodi, benvenuti a Linea d'Ombra. Quando Riccardo entrava in ambulatorio, sembrava riempirlo tutto con la mole del suo corpo. Anche se aveva quasi 60 anni, era ancora un omone alto 1,90 m e la sua figura riusciva a farla bene dappertutto. Lo avevo conosciuto quando era ancora un ragazzo, perché una delle sue figlie, Marianna, era stata la prima ragazza con cui avevo ballato. La Marianna si era sposata e si era trasferita in città. Io invece, per gli strani e imprevedibili casi della vita, avevo finito proprio per diventare il medico condotto di quel paese sulle rive del Po e pertanto anche della sua famiglia. Buongiorno, dottore. Andiamo, Riccardo. Mi ha dato del tu fino all'altro giorno. Il fatto che adesso sia diventato il medico del paese non può mica cambiare lo stato delle cose, gli dissi. Riccardo sorrise amichevolmente delle mie parole, però insistette. Adesso che lei è diventato medico, mi disse, ci vuole rispetto. Va bene, come preferisce, Riccardo, faccia come vuole. Sappia comunque che per me non è cambiato niente, gli dissi. Lo feci accomodare di fronte alla mia scrivania e gli chiesi quale fosse il suo problema. Dall'espressione imbarazzata del suo viso, capii subito che si trattava di un magone che si portava sullo stomaco da un bel pezzo. Vede, dottore, la primavera scorsa sono stato comandato con i miei compagni vigili del fuoco di prestare soccorso in Valtellina. Là ho conosciuto una donna, una croce rossina di Padova, una gran bella donna, 50 anni, vedova da 5 anni e con due figli grandi già belli e sposati. Appena ci siamo conosciuti, ci siamo subito piaciuti. Il giorno dopo l'ho accompagnata dopo cena alle tende della Croce Rossa e non ho saputo resistere alla tentazione. Ma nemmeno lei, eh? Siamo andati nell'ambulatorio medico che a quell'ora era deserto e abbiamo fatto l'amore. Dottore, lei è un uomo e può capirmi. Era una di quelle occasioni che non si possono perdere, una di quelle che capitano una volta o due nella vita. Era molto imbarazzato perché aveva delle figlie mie coetanee, stiamo parlando di un uomo già maturo, aveva una sessantina d'anni, per cui l'imbarazzo allora era maggiore di quanto non possa essere adesso, che si è indotti a parlare più liberamente di queste cose, certo. Il giorno successivo abbiamo continuato a svolgere i nostri compiti di assistenza alla popolazione e non ci siamo neanche potuti né vedere né parlare, ha continuato Riccardo. Sono arrivato tardi a cena e lei non c'era più. Sono comunque andato dalle parti della tenda ambulatorio e ho provato ad entrare per vedere se era là dentro. C'era. Mi stava aspettando, dottore. E così abbiamo fatto l'amore per la seconda volta. Beh, dottore, lei non ci crederà. Ma la cosa è andata avanti così per 3 settimane. Di giorno non ci incontravamo quasi mai e se capitava a malapena ci parlavamo. La sera ci sbranavamo dentro la tenda dell'ambulatorio. Io non avevo il coraggio di interromperlo né di chiedergli per quale motivo venisse a raccontare proprio a me quelle vicende. In fin dei conti avrebbe potuto essere mio padre e non me la sentivo di invitarlo ad essere il più possibile conciso adducendo il fatto che fuori, in sala d'attesa, c'erano altre persone che dovevano entrare a farsi visitare. Quasi avesse interpretato i miei pensieri, concluse immediatamente la sua nostalgica cartolina valtellinese. Dopo 3 settimane mi disse, finita l'emergenza, siamo stati tutti rimandati a casa. Io di stanza come al solito in caserma a Ferrara e lei a Padova. Ci siamo telefonati, ci siamo accordati per vederci a Monselice, quasi a metà strada, ma fin dalla prima volta ho capito che le cose non andavano bene. Ero partito da casa inventandomi una grossa bugia con mia moglie e dicendo che sarei tornato tardi la sera. Mi sono sentito subito in colpa. Se qualcuno mi avesse visto, se qualcuno mi avesse riconosciuto mentre uscivo dall'albergo con lei. Insomma, per farla breve, quando siamo andati a letto, con tutte le paure che mi ero messo addosso, non sono riuscito a combinare niente. Per fortuna che lei è una donna fatta e certe cose riesce a capirle e non ne fa un dramma, ma il dramma ce l'avevo io, bello grosso. Dentro di me, dottore, riesce a capirmi? Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling too foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Hearing them, seeing them in the state I'm. But she said to me, love will find a way. Gather round all you clowns, let me hear you say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your. La seconda e la terza volta che ci siamo visti a Monselice non sono state migliori della prima, dottore. Una figuraccia dietro l'altra. Alla fine ho dovuto arrendermi. Lei non ne ha fatto ancora una volta una tragedia, ma dai suoi occhi, dottore, io ho capito che c'era rimasta molto male. Alla fine mi ha chiesto, non ti piaccio più? E io sono stato 2 ore a spiegarle che mi piaceva e come se mi piaceva, ma io ho capito che lei alle mie parole ci credeva e non ci credeva. È stato allora che ho deciso di venire da lei qui in ambulatorio e raccontarle tutto. Ma Riccardo, gli dissi io non so proprio come aiutarla. Ascolti, dottore, mi disse, ho sentito in giro al bar che c'è una puntura per queste cose, una punturina capace di risolvere questi problemi. In effetti, a quei tempi non c'erano ancora i farmaci specifici per la disfunzione erettile che poi sono usciti successivamente. Mentre ragionavo, Riccardo intanto continuava con la sua supplica. Insomma, dottore, mi disse, pare che quelli che hanno provato questa cura, questa punturina, siano riusciti a risolverlo il problema. A questo punto, investito di tutta l'autorità del mio stato, decisi di scendere in campo e gli dissi, caro Riccardo, io capisco benissimo la natura del problema in questione. Lei vorrebbe fare un'iniezione di testosterone ogni mese per vedere se la situazione cambia, ma si sta sbagliando. Questa cura avrebbe su di lei degli effetti collaterali e poi il suo problema è sicuramente di origine psicologica, gli dissi. Che cosa intende, dottore? Vede, Riccardo, io la conosco da quando ero piccolo, lei e tutta la sua famiglia. Mi ricordo di quando a primavera tornava a casa con il mazzolino di viole raccolte per strada per sua moglie. Dei regalini, dei giochi per noi bambini, degli abbracci e dei baci dati a sua moglie Miranda ogni volta che usciva di casa e che vi rientrava dopo il turno di lavoro. Lei ha sempre avuto un profondo senso della famiglia ed è sempre stato innamorato di sua moglie. Tenga presente che il fenomeno Viagra ha slatentizzato non solo il problema in quanto tale, ma la gli ha quasi dato una dignità nosografica, appunto, che la gente ne parla. Da prima della disfunzione erettile si sussurrava sottovoce, non se ne parlava. Adesso è stata una cosa sdoganata. Indubbiamente allora se ne parlava molto poco, perlomeno per chi come me è medico di lungo corso. Adesso se ne parla molto di più e molto più liberamente di tutto un tempo, certo. Certo, lei è un uomo e non può non avvertire le pulsioni, le tentazioni, i desideri di un uomo. Quello che lei mi chiede, cioè di prescriverle un'iniezione di testosterone, non credo che rappresenti la strategia giusta, continuai. Deve capire che il centro del sesso non sta in mezzo alle gambe, ma sta qui, in mezzo alle orecchie. Ed è lì che è radicato il suo problema. Io credo che in Valtellina, come si dice, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, lei si fosse sentito libero e capace di comportamenti, diciamo pure, svincolati da certe responsabilità, senza alcun timore o preoccupazione, magari proprio quella disgrazia di cui vi stavate occupando, che faceva da catalizzatore ai vostri sentimenti, è potuto accadere a quello che adesso non è più ripetibile, Riccardo. Vicino alle proprie responsabilità, ai propri affetti, di fronte al rischio concreto di invalidare tutto per una coincidenza, ecco che proprio l'inconscio viene fuori e ha, per così dire, appesantito tutta la questione. Confesso che mi ero anche un po' inorgoglito nell'esporre a Riccardo la mia piccola teoria casereccia circa l'insorgere della sua disfunzione erettile. Mentre me ne stavo compiaciuto a godere l'effetto che avevano avuto su di lui le mie parole, Riccardo si alzò, si avvicinò al banco con i miei strumenti medici e con aria ancora più preoccupata di prima me li indicò dicendo: ho capito dottore, ho capito tutto quello che mi ha detto e va bene, niente punturina. Allora cerchiamo di fare le cose per bene. Con i suoi strumenti mi dia una bella occhiata dentro alle orecchie, perché io in questa storia voglio andarci fino in fondo. And you got me like, oh, what you want from me? What you want from me? And try to buy your pretty heart with a price too high. Baby, you got me like, oh, you love when I fall apart. So you can put me together and throw me again. Stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Oh, and babe, I'm fist fine with fire, just to get close to you, and we burn something, babe. And I'll run for miles just to get a taste. La puntata di oggi di Linea d'Ombra si intitola Sesso, bugie e terapie, e forse avete capito anche il perché dalla prima storia, la storia di Franco, che ha a che fare con tutti e tre questi concetti, perché il protagonista si trova a raccontare delle bugie, ad avere bisogno delle terapie che sono legate in qualche modo alla sessualità. Franco è già stato ospite di Linee d'Ombra con una storia bellissima, che era la storia dell'Imperia. Pronto, ciao Franco, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti voi, Matteo. Senti Franco, in questo momento io non posso fare a meno di chiederti come va e come stai. Tu sei medico di famiglia, giusto? Com'è la situazione in questo momento? Dove vivi e dove lavori? Trincea con tutto quello che sta succedendo. Ma quindi tu rimani in studio oppure vai a casa dei pazienti? Sì, i nostri studi sono aperti, certamente quello che possiamo fare lo facciamo nel modo più asettico possibile, lavoriamo molto con fax, computer, WhatsApp, con qualunque metodo non consenta rapporto ravvicinato, certo. E qualche visita domiciliare bisogna pur farla, certo. E in questo momento la gente ha più paura oppure ha più bisogno semplicemente di essere rassicurata su piccole cose? Le due cose sono strettamente connesse. Certamente all'inizio la paura e lo stato d'ansia è stato dominante, pian pianino e nella natura umana ci si abitua a tutto, ci si abitua anche a questo tipo di guerra. Franco, senti, allora guarda, non approfitto troppo del tuo tempo, ti ringrazio per averci mandato questa storia. Non so se ve la ricordate, la storia che ci aveva mandato Franco era la storia della signora Imperia, una storia bellissima che parlava di una donna, insomma, in là con gli anni, che chiedeva a Franco un consiglio riguardo alla possibilità di avere dei rapporti con un uomo che aveva conosciuto di recente, e la storia si concludeva con: dottore, da quel giorno padellate e padellate di pasta al forno. Insomma, se per caso non l'avete sentita, una storia magnifica, andate a riascoltarla. Franco, invece, in questo caso, ma questo signore che veniva da te non era imbarazzato nel chiederti una cosa di questo genere, sapendo oltretutto che tu conoscevi lui e la sua famiglia? Credo dei due che più imbarazzato credo di essere stato io, perché io allora avevo 27 anni, questo signore ne aveva una sessantina ed era coetaneo dei miei genitori, per cui dei due il più imbarazzato ero io. Evidentemente i pazienti, per il solo fatto che noi abbiamo il camice, così come un prete ha la stola, si sentono slatentizzati e liberi di confidarsi, di aprirsi liberamente, certo. Senti, com'è finita poi quella storia? Te lo ricordi? Te ne ha parlato? Credo che sia una cosa che si è andata esaurendo, se non siamo più tornati sull'argomento, penso che anche perché evidentemente non ho potuto, allora non c'erano ancora i farmaci per la disfunzione erettile e pertanto non ho potuto corrispondere alle aspettative del mio paziente come lui desiderava. Senti, invece, da quando questi farmaci sono apparsi sul mercato e nella vita delle persone, ti capita spesso che le persone te le chiedano? E se te le chiedono, anche lì c'è una forma di imbarazzo, ci fanno dei giri intorno oppure vanno dritti al punto? Beh, allora, questi farmaci furono studiati già alla fine degli anni 80 e commercializzati alla fine degli anni 90, 98-99. Indubbiamente questo ha avuto un effetto deflagrante anche un po' sulla cultura stessa, anche questo ha avuto un effetto di catalizzatore, cioè non se ne parlava, si è cominciato a parlarne, addirittura a riderci sopra, certo. La cosiddetta disfunzione erettile è diventata la disfunzione del rettile e questo ha comportato naturalmente la nascita di tutta una letteratura più o meno ironica sul fatto. Però una volta c'era più imbarazzo, adesso è una cosa molto più liberale, sì, certo. Senti, invece ne avevamo già parlato l'altra volta, ma è una cosa cui per la quale ho sempre molta curiosità. Un medico come te, il medico di famiglia, è ancora, come dire, è più un confessore o è più un terapeuta? Cioè, è più una persona a cui si chiedono prescrivere dei farmaci o a cui si ha voglia di raccontare delle cose? Diciamo che la figura del medico è frastagliata in numerose immagini. Il medico di campagna è ancora, riveste la figura dell'amico, del confessore, è la persona che conosce i suoi pazienti, ma anche i suoi pazienti conoscono tutto di lui. In città a malapena le persone conoscono il nome del medico di famiglia, in campagna sanno che numero di scarpe porta il medico di famiglia. Che gusti ha magari e che dolce gli piace mangiare per portargli qualcosa per il compleanno, per Natale. Franco, io ti ringrazio davvero non solo per la storia, ma ne approfitto, visto che appunto si parla tantissimo in questi giorni degli operatori sanitari e in particolar modo dei medici di famiglia, che fanno un lavoro importantissimo, è come se ce ne fossimo riaccorti solo in questo momento. Io ne approfitto per salutare te e fare davvero un saluto e un ringraziamento a tutti i medici che fanno il tuo mestiere. Grazie davvero, ne usciremo, vero Franco? Sì. Ne usciremo. Esattamente. Grazie mille. In bocca al lupo per tutto, Franco. A presto, grazie mille. wings and baby fly away. It's your body, you can love if you want to, loud if you want to, scream if you want to. Just let me love you, lay right here, girl, don't be scared of me. Give you sex therapy, give you sex therapy. It's your body, will go hard if you want to, as hard as you want to, soft as you want to. Just let me love you, lay right here, I'll be your fantasy. Give you sex therapy, give you sex therapy. La puntata si intitola Sesso, bugie e terapie e dopo la storia di Franco che abbiamo raccontato riguardo alla sua consulenza rilasciata in una giornata da medico, ora torniamo a raccontare prima le borse in diretta, poi di nuovo qui a Linea d'Ombra. Linea d'Ombra. La puntata di oggi si intitola Sesso, bugie e terapie e dopo la prima storia di Franco e del suo paziente andiamo da un'altra parte e raccontiamo un'altra storia che però ha sempre a che fare con la sessualità, con i gusti sessuali e con le terapie. C'è ancora qualcuno, sembra incredibile a dirsi, ma c'è ancora qualcuno che ritiene che l'omosessualità sia una malattia. E quindi come una malattia sia appunto una devianza dello status quo, e soprattutto essendo una malattia può essere guarita, si può trovare una terapia a breve o lungo termine per guarire la malattia dell'omosessualità. Questa follia è una follia che ancora appunto esiste tra le persone, tra alcune persone soprattutto che hanno delle convinzioni religiose molto molto forte. Tra questi ci sono soprattutto moltissimi mormoni. La prossima storia parla proprio di uno di loro, parla di un mormone che è stato di fatto uno dei pionieri di quella che viene definita terapia riparativa, salvo poi rivelare una piccola sorpresa. E comincia così questa storia. Il male cammina tra di loro lì al Gay Pride, ma nessuno se ne accorge. Indossa una camicia blu stirata, jeans bianchi e occhiali da sole neri. Supera l'entrata dello Utah Pride Festival come tutti gli altri, poi sparisce tra la folla. Ma Dave Mason non si sente uguale alle persone che gli stanno intorno. La sua vita è stata diversa dalla loro. Si fa strada tra calzini arcobaleno, mantelli arcobaleno, tutù e magliette con la scritta «Satana è il mio paparino», ma non si fa mai contagiare dell'energia che lo circonda. A dirla tutta, non aveva molta voglia di partecipare al Pride, gli hanno detto di fare un tentativo e lui l'ha fatto. Ed ecco, il male è solo uno dei molti nomi con cui il mondo ha etichettato questa persona, il protagonista di questa storia, Dave Mason. Gli hanno dato dell'imbroglione, del torturatore, del criminale e anche del pezzo di merda. Ma forse l'epiteto più ricorrente è padrino intellettuale della terapia riparativa, una pratica pseudoscientifica e spesso di matrice religiosa che consiste nel cercare di convincere le persone gay a cambiare il loro orientamento sessuale. Secondo i ricercatori, circa 700.000 americani si sono sottoposti alla terapia riparativa nella loro vita. Dave Mason è appunto uno psicologo mormone ed è stato uno dei pionieri di questa terapia, di questa ricerca. Poi, un giorno, ha semplicemente dichiarato di essere omosessuale. In questa puntata che si intitola Sesso, bugie e terapie, la seconda storia di oggi è la sua. Seguiteci lungo le linee d'ombra. All'inizio del Novecento, l'omosessualità era classificata dai medici come un disturbo psichiatrico. La classificazione è scomparsa, ma i leader religiosi continuano a incoraggiare i fedeli a sottoporsi a questa pratica come se essere gay fosse una scelta. Per decenni Dave Mason è stato uno dei più famosi terapisti riparativi del paese e ha lavorato con uomini che provavano un'indesiderata attrazione per altri uomini. Spesso i clienti di Mason erano stati indirizzati a lui da dei leader religiosi e in molti casi erano schiacciati tra le pulsioni omosessuali e i principi di una fede che condannava quelle pulsioni. Per gran parte della sua carriera lui ha creduto che l'omosessualità fosse una malattia, un disturbo da curare, con sessioni di psicoterapia, ritiri meditativi ed esperimenti per completare la mascolinità. Oggi è anche un terapista, ma ha smesso di credere nell'integrità di genere ormai da anni, più o meno da quando ha capito che l'omosessualità non è un disturbo, ma il suo cambiamento però ha un'altra causa. Il 21 gennaio del 2012 lui ha ammesso la verità su Facebook scrivendo così: «Un anno fa ho capito che era arrivato il momento di fare dei cambiamenti nella mia vita. Ho capito che dovevo dichiarare la mia omosessualità. Il mio lavoro ha aiutato molte persone, ma sono sicuro di avere fatto del male a qualcuno. Nato nel 1961 a Murray, nello Utah, è sempre stato un mormone, Dave Mason, ultimo figlio di una famiglia religiosa. Da bambino trascorreva l'estate catturando le lucertole dietro casa. La sua camera era piena di animali domestici e di piante. Al liceo era poco portato per lo sport. I suoi genitori lo educarono per farlo diventare il tipico mormone. Il genere è eterno, ricorda a proposito degli insegnamenti ricevuti. Eri maschio o femmina prima di nascere, sei maschio o femmina oggi e sarai sempre maschio o femmina, mi dicevano. Mason recitava la parte che gli avevano ritagliato le autorità religiose. Per lui era inconcepibile l'idea di un mondo in cui ci fosse spazio per una definizione diversa da quella imposta dalla sua chiesa. Fino ai 23 anni, racconta, non ho ammesso di essere gay, nemmeno a me stesso. L'ho capito quando stavo per sposarmi. Ma non disse niente a sua moglie, Peggy, o meglio, la sua futura moglie. Un anno dopo il matrimonio, dice, mi resi conto che la situazione stava peggiorando. E così confessò a lei il suo segreto. Era attratto dagli uomini. Peggy rimase allibita. Nessuno dei due aveva idea di che cosa fare. Nella loro fede non c'era posto per una situazione di quel tipo, così andarono avanti come se niente fosse. Ebbero 3 figli. Fecero sesso migliaia di volte. Per gran parte del tempo Mason era felice. I suoi clienti erano spesso uomini di fede che sentivano un conflitto tra l'essere gay e l'appartenere a una chiesa che condannava l'omosessualità. In quel periodo creò i viaggi verso la mascolinità. Erano dei ritiri che duravano un fine settimana in cui gli uomini potevano affrontare le incongrue pulsioni sessuali omosessuali. Durante il soggiorno i leader guidavano i partecipanti in attività come l'abbraccio padre-figlio, partendo dall'idea che le pulsioni fossero il risultato di traumi infantili o della mancanza di contatto fisico con il padre. Poi la sera tornava nel suo appartamento, dove trovava il suo assistente. Insieme si coccolavano nudi nel letto. Per Mason era facile spiegare quell'ipocrisia. Prescriveva a se stesso la sua medicina. Pensava di essere un uomo al centro di una visione del mondo mormone. Si sentiva quindi giustificato. Non c'è giustizia né pace qua intorno. Tutte le ore di un anno e tutto il tempo del giorno. Io giù da un letto sicuro mi butto alle 6. Un caffè d'acqua sottile ti porto. Nessuno sa e nessuno nemmeno capisce. Nessuno vede l'amore, nessuno lo intuisce. Io fra i tuoi occhi splendenti ci sto perduto nel mezzo. Se accendessi un'altra luce non la vedrei. Non c'è lavoro né pace qua intorno. Non c'è futuro né paga qua in fondo. C'è il mio capo al cancello che aspetta un'altra sigaretta, poi vado. E lui di certo non sa e di certo non capisce. Lui non lo vede l'amore, nemmeno lo intuisce. Io fra i tuoi occhi splendenti sto perduto nel mezzo. Se si accendesse un'altra luce non la vedrei. E certi giorni non so nemmeno come pregare. Certe volte non so davvero cosa aspettare. Certe notti sono sicuro che sbaglio io. Toccami la mano e lo saprò. Dave Mason è gay, è completamente gay, dice. Non bisessuale, solo gay. Ora può dirlo. Gli piacciono gli uomini, di questo è sicuro. Ha incontrato un tizio in palestra e ha pensato fosse amore. È stato fantastico per un paio di settimane, racconta. Poi è finita. Ha scaricato Tinder e Grindr sul telefono. Ha avuto alcuni incontri. È stato strano, dice. Anzi, è stato schifoso, racconta. Poi ha cancellato le app. Ha conosciuto un uomo su Facebook e ha preso un aereo per incontrarlo. Errore madornale. Ha provato a guardare il reality show sulle drag queens, RuPaul's Drag Race, ma non ci ha capito molto. Una volta è entrato in un bar gay. Mi sentivo come una prostituta in chiesa, racconta, completamente fuori luogo. Poi ha incontrato un uomo molto dolce di nome Douglas Freeman, che vende occhiali e ama parlare di astrologia, tarocchi e delle sue quattro figlie, nate da tre matrimoni mormoni, che ha cercato di fare funzionare prima di dichiararsi gay. Mason cerca l'amore con un uomo, sa che nei 32 anni di matrimonio con Peggy non è mai stato davvero innamorato e questo lo fa soffrire. Quando ha fatto coming out pensava soprattutto a come avrebbe reagito la sua congregazione. All'epoca si era separato da Peggy e i suoi tre figli adulti sapevano già che lui era gay. Ogni settimana, racconta, durante la funzione pensavo: posso davvero dichiararmi? Posso farlo? Sentivo di no, di non poterlo fare. Ma soprattutto Dave era consapevole del rischio di essere espulso dalla sua comunità. Una domenica ha trovato il coraggio di parlare durante la funzione. Ha detto ai suoi confratelli di essere lo stesso mormone di sempre, di credere in Dio e nello Spirito Santo, e di essere anche gay. Mi davano le pacche sulle spalle. Dicevano cose come: siamo dalla tua parte, Dave. Mason non si aspettava quel tipo di reazione. I leader della chiesa mormona gli hanno offerto un'alternativa. Avrebbe potuto partecipare alle funzioni, ma con un ruolo meno importante. In una chiesa che si oppone al matrimonio gay e che scomunica gli omosessuali, l'esperienza di Mason è completamente diversa. Credeva che la sua religione gli avrebbe impedito di essere se stesso, ma alla fine non è stato emarginato. Probabilmente questa clemenza è dovuta all'approccio progressista della congregazione di cui fa parte a Salt Lake City. Altri gay sono stati molto meno fortunati e Mason lo sa. Lui ha ricevuto molti incoraggiamenti, ma anche delle critiche per non avere rinnegato il lavoro svolto fino a quel tempo. A Salt Lake City alcuni psicologi gay specializzati nel sostegno agli omosessuali hanno preso Mason sotto la loro ala protettiva, colpiti dal coraggio che ha dimostrato. Mi dispiace, racconta oggi, di aver creduto che l'omosessualità fosse un disturbo, ma la verità è che sono più dispiaciuto per come ho trattato mia moglie, per non essere stato un buon marito. Mi dispiace di aver fatto parte di un sistema che ha oppresso gli omosessuali. Sono un ex mormone, moralmente e culturalmente conservatore, politicamente progressista, apertamente gay ed ex terapista riparativo. Sono al punto di partenza. Niente più bugie. Non si può fingere l'amore. È così. E sempre sarà così. Well, I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. Stand up on so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Oh, I said I could rise from the harness of our gold. Here come the tears. La storia di Dave Mason l'abbiamo trovata su un pezzo che abbiamo letto sul Californian Sunday Magazine, che è un magazine americano che dedicava proprio tutta questa storia a questo mormone che appunto era un ex terapista, o meglio un ex esperto di terapia riparativa, e poi ha scoperto di essere omosessuale. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a Linee d'ombra. Linee d'ombra. Questa è ormai da 3 settimane la parte di programma che è dedicata ai diari personali. Il primo diario è un diario che arriva da una delle case d'Italia che sta vivendo questa quarantena, a cui ormai in qualche modo quasi ci stiamo, ahimè, abituando. E poi c'è la nostra diario seriale, la nostra storia seriale che Mauro Pescio raccoglie e che raccontiamo giorno dopo giorno. Partiamo con la prima storia. Che cosa accade in queste case che si sono riempite di gente, si sono riempite dei propri proprietari, che di solito uscivano presto la mattina e spesso e volentieri tornavano tardi la sera? Ora queste case sono molto più abitate. La prossima storia è una storia che ci ha mandato Stefano e che racconta quando torna a casa la mattina dopo aver accompagnato la moglie al lavoro, si guarda in giro e dice: e adesso cosa faccio? Ed eccolo che cosa fa. Ora è 6:15, sveglia, pasticche pressione, colazione, aggiornamento sulle news e controllo cellulare WhatsApp, Facebook, mail e così via. Finora tutto semplice, come ogni mattina. Ora è 7:15, accompagno mia moglie al lavoro, qui scatta la prima novità. Io non sono vestito coi pantaloni, camicia e maglione, ma con una semplice tuta, perché non vado in ufficio. Sono sospeso dall'attività lavorativa. Ora è 7.30, lascio mia moglie al lavoro. Al ritorno, Radio 24 a tutto volume per sentire la rassegna stampa con spezie e mieli. Sosta furtiva al bancomat, come un ladro mi avvicino velocemente, controllando che non ci sia nessuno nei paraggi. Eseguo il prelievo con una velocità comparabile a quella di Bolt sui 100 metri piani. Lungo il ritorno, telefonata a mia moglie. Tutto ok? Buona giornata, baci. Ore 8 sono a casa. A casa, non in ufficio. Adesso inizia la parte complicata della giornata. Ore 8:10, sintonizzo tutte le televisioni della casa sui vari notiziari, così posso seguire l'informazione pur spostandomi da una stanza all'altra senza perdere neppure una parola. Ulteriore controllo dello smartphone con relative interazioni sui social. Guardo l'orologio, sono le 8:36. Sarà durissima. 8:40, colpo di genio. Lavo la macchina. Ho un obiettivo importante e gratificante, una cosa da riferire quando mi chiederà «Cosa hai fatto oggi?». Mi attrezzo con aspirapolvere, spugna, shampoo, guanti e finta pelle di daino. Esco di casa come Russell Crowe quando entra nell'arena. Giro lentamente intorno al mio avversario. Il mio sguardo incrocia i fanali dell'automobile che non abbassano lo sguardo. È una questione tra noi due ora. Qui non si tratta solo di lavare una macchina. Si tratta di recuperare un ruolo di utilità sociale che mi è stato sottratto da questo virus vigliacco. Inizio le consuete operazioni di lavaggio senza trascurare alcun dettaglio. Pulizia dei tappetini, aspirazione della sporcizia, pulizia del cruscotto con il prodotto a chiappapolvere, lavaggio con spugna insaponata, risciacquo, asciugatura e udite udite pulizia del parabrezza con il Vetril. Oggi devono risplendere anche i cerchioni. Mentre lavoro di tanto in tanto faccio delle piccole pause e ne approfitto per guardarmi intorno e verificare se delle case vicine qualcuno mi ha visto. Non si tratta solo di pulire una macchina, ma di mandare un messaggio alla comunità. Va bene, sono a casa, il virus mi ha costretto a non andare in ufficio, mi obbliga alla passività, ma sto reagendo. Non posso accettare di passare la giornata sul divano, non sono ancora pronto. Prima o poi arriverà il momento, ma non ora che ho forza ed energia per essere attivo. Finisco la pulizia, torno in casa, sono le 10:42. Vabbè, sbrighiamo il frigo, va. A clean up woman is a woman who gets all the love we girls leave behind. The reason I know so much about her is because she picked up a man of mine. Dopo la storia di Stefano continuiamo verso la fine della storia seriale che vi stiamo raccontando da oltre un mese, la storia di Anna Maria. Anna Maria è una donna di grande intelligenza che ha avuto una ferita di quando era ragazzina, ha avuto una ferita profonda dovuta a un rapporto complicato con i genitori. Ha deciso che nella sua vita lei, per essere felice, doveva essere perfetta. Questa ricerca della perfezione però in realtà non l'ha portata da nessuna parte e all'età di 37 anni ha deciso di provare a farla finita in una maniera terribile, non mangiando più. La sua, fortunatamente la sua determinazione è stata inceppata da chi se n'è accorto, dai parenti, dai medici che l'hanno curata in quella che a tutti gli effetti è una clinica psichiatrica, e ora sta sviluppando un nuovo rapporto con il cibo, molto molto lentamente. Anna Maria ovviamente oggi sta molto bene, con il cibo ci lavora, è una chef, ma è stata molto gentile e molto onesta nel raccontarci la sua storia. Esco dall'ospedale e inizio un percorso, nel senso che il professore che mi stava seguendo lì... Quanto ci stai? Entro giugno esco alla fine di settembre. Adesso non farebbero più così, cioè nel senso di solito ti davano un mese e poi ti buttavano fuori. Ah, a meno che un tempo lungo, perché era un caso, diciamo così, importante. E quindi sono proprio entrato all'inizio dell'estate e sono uscita con l'autunno. La prima sfida che devo affrontare una volta fuori dall'ospedale psichiatrico è quella della terapia. Durante il colloquio di dimissione spiegai al medico che mi aveva curato che non avevo intenzione di passare da una dipendenza alimentare ad una dipendenza farmaceutica e che avrei voluto diminuire le mie terapie poco per volta fino ad arrivare a smetterla del tutto. La mia terapia era a base di benzodiazepine, tutte date con metodo. Il medico di fronte a me mi disse che in un caso come il mio, con uno stato depressivo molto importante, mai affrontato, portato avanti dall'infanzia, sarebbe stato difficile farne a meno. E io gli risposi che ne ero consapevole. In questi mesi, gli dissi io, ho imparato che è tutto molto complesso. Lui mi disse, è una cosa, questa depressione, cioè in realtà è come se io fossi, cioè quello che lui mi ha detto è che in realtà dall'infanzia in poi c'era sempre questo stato depressivo molto importante che io non ho mai affrontato veramente, e l'ho affrontato facendo finta di, e poi però come in tutti i casi è crollato l'impalcatura. Quando è crollata l'impalcatura io ho fatto finta di, e poi lui è ritornato a farsi sentire, per cui poi alla fine ho deciso che bisognava, come ti ho raccontato prima, bisognava prendere atto di questa cosa e quantomeno affrontarla. E quindi bisognava affrontarla con gli strumenti giusti. E quindi lui mi disse che la consapevolezza che avevo acquisito era una cosa importante, ma non era sicuro che sarebbe bastata. Mi mise di fronte al fatto che sarei potuta anche rimanere così, che la maggiore consapevolezza da sola non sarebbe bastata, che ci sono sensibilità diverse e che molti, anche affrontando i propri traumi, non è detto che riescano a risolverli. Prima di salutarmi mi ricordò ancora una volta che, a differenza di prima, se mi fossero capitate delle giornate più dure, delle situazioni più dure, avrei avuto più armi e sarei stata in grado di affrontarle. Cioè non è che poi cominci a fare le cose più strane di questo mondo. Sai che non stai bene, senti dentro di te che c'è qualcosa che non va, ma sai anche come affrontare questa situazione, che è importante poi, no? Invece poi dipende come mi sparare destra a sinistra. Tu in un certo qual modo ti rendi conto che non sei perfetto, ma vai bene così, sì, e lo accetti. Ed è incredibile da questo punto di vista, perché ti si aprono delle prospettive completamente diverse. Si chiude qui anche la prima puntata della settimana di Linee d'Ombra. Io vi ringrazio per le storie che continuate a mandarci, sono tutte magnifiche e davvero ci riservano, anche a noi che le leggiamo, a me, ad Anita Panizza, a Mauro Pescio, un pochettino di fuga dalle nostre giornate e dalle nostre case in cui siamo rinchiusi come tutti voi. Quindi grazie innanzitutto per darci la possibilità di evadere dalle nostre case, e grazie per darci la possibilità di raccontarle e di permettere a chi ascolta di evadere per un po' dalle loro case. Quindi continuate a mandarcele, linee d'ombra@radio24.it, ma mandateci anche i vostri diari, diari dalla quarantena, e ci condividete che cosa accade nelle vostre giornate che sono state stravolte. Sempre linee d'ombra@radio24.it. ora la linea al GR e noi torniamo puntualissimi domani per raccontare storie che sono sempre il modo migliore per stare su con il morale e per conoscere il mondo. Viva!